Capitolo 148. La riunione degli Argonauti. Dopo la morte di re Creteo l'Eolico, Pelia, figlio di Poseidone, ormai giunto a tarda età, strappò il trono di Iolco al fratellastro Esone, legittimo erede. Poiché un oracolo l'aveva avvertito che egli sarebbe stato ucciso da un discendente di Eolo, Pelia mise a morte tutti i capi eolici che risparmiò per amore della di lui madre Tiro. Lo tenne però prigioniero nel palazzo, costringendolo a rinunciare alla sua eredità. Ora Esone aveva sposato Polimela, nota anche come Anfinome, Perimeda, Alcimeda, Polimeda, Polifema, Scarfea o Arne, che gli diede un figlio chiamato Diomede. Pelia avrebbe spietatamente ucciso il bambino se Polimela non avesse indotto le sue ancelle a piangere sul suo corpicino, come se fosse nato morto, per poi portarlo fuori città sul monte Pelio. Colà Chirone, il centauro, lo allevò, come già aveva fatto o avrebbe fatto in seguito con Asclepio, Achille, Enea e altri eroi famosi. Un secondo oracolo consigliò a Pelia di guardarsi da un uomo che calzasse un solo sandalo. Un giorno, mentre si trovava sulla spiaggia, un gruppo di principi suoi alleati si unì a lui in un solenne sacrificio a Poseidone. Gli occhi di Pelia caddero su un giovanotto alto dai lunghi capelli che indossava una tunica aderente di cuoio e una pelle di leopardo. Era armato di due lance e calzava un solo sandalo. L'altro sandalo l'aveva perduto nelle fangose acque del fiume Anauro, che alcuni erroneamente chiamano Eveno o Enipeo, a opera di una vecchia che, stando sull'altra riva, supplicava i passanti di traghettarla al di là del fiume. Nessuno ebbe pietà di lei finché quel giovane Magnesio, cortesemente, si prestò a caricarsela sulla schiena, ma si accorse di barcollare sotto il suo peso, perché la vecchia altri non era che era travestita. Pelia, infatti, aveva offeso la dea negandole gli abituali sacrifici ed essa era ben decisa a punirlo per la sua negligenza. Quando dunque Pelia chiese bruscamente allo straniero: «Chi sei tu e qual è il nome del padre tuo?» Il giovane rispose che Chirone, suo padre adottivo, lo chiamava Giasone, benché egli fosse altrimenti noto come Diomede, figlio di Esone. Pelia lo fissò con gli occhi oscurati dall'odio. «E che faresti?» incalzò. «Se un oracolo ti dicesse che secondo il fato uno dei tuoi concittadini dovrà ucciderti?» «Manderei quel mio concittadino alla ricerca del vello d'oro nella Colchide», replicò Giasone, senza sapere che Era gli aveva messo quelle parole sulle labbra. «E ora dimmi, ti prego, con chi ho l'onore di parlare?» Quando Pelia gli rivelò la sua identità, Giasone non mostrò alcuna sorpresa, anzi chiese che gli fosse restituito il trono usurpato, senza tuttavia accennare alle mandrie e alle greggi di cui Pelia si era appropriato. E poiché Giasone era spalleggiato da suo zio Ferete, re di Fere, e da Amataone, re di Pilo, che partecipavano al sacrificio, Pelia non ebbe il coraggio di negare i diritti del giovane. «Però», insistette, «prima dovrai liberare la nostra amata patria da una maledizione». Giasone venne allora a sapere che Pelia era tormentato dall'ombra di Frisso, che era fuggito da Orcomeno una generazione prima a cavallo di un divino ariete per non essere sacrificato. Si era rifugiato nella Colchide, dove, alla sua morte, gli fu negata adeguata sepoltura, e secondo l'oracolo delfico, la terra di Iolco, dove si erano stabiliti molti parenti mini di Giasone, non avrebbe mai prosperato finché l'ombra di Frisso non fosse stata riportata in patria con il vello d'oro dell'ariete. Codesto vello stava ora appeso a un albero nel bosco sacro di Ares in Colchide, sorvegliato notte e giorno da un drago che non dormiva mai. Se Giasone avesse compiuto questa pia spedizione, disse Pelia, egli gli avrebbe volentieri consegnato lo scettro che era ormai divenuto troppo pesante per un uomo della sua veneranda età. Giasone non poteva negare a Pelia questo favore e mandò dunque araldi in ogni corte di Grecia per convocare volontari disposti a salpare con lui per la Colchide. Indusse inoltre Argo di Tespi a costruirgli una nave a 50 remi. La nave fu messa in cantiere a Pagase e si usò legname stagionato del monte Pelio. Atena stessa ornò la prua dell'Argo con una figura di buon auspicio intagliata in una quercia di Dodona sacra al padre suo Zeus. Molti e diversi elenchi di argonauti, poiché così si chiamarono i compagni di Giasone, furono compilati in varie occasioni, ma i nomi seguenti sono quelli citati dalle fonti più autorevoli. Acasto, figlio di Re Pelia, Admeto, principe di Fere, Anceo il Grande di Tegea, figlio di Posidone, Anceo il Piccolo, illelego di Samo, Anfiarao, il veggente Argivo, Argo di Tespi, costruttore dell'Argo, Ascalafo di Orcomeno, figlio di Ares, Asterio, figlio di Comete, un Pelopide, Atalanta di Calidone, vergine cacciatrice, Attore, figlio di Dione il Focese, Augea, figlio di Reforbante di Elide, Bute di Atene, apicultore, Calaide l'Alato, figlio di Borea, Canto l'Eubeo, Castore il lottatore spartano, uno dei Dioscuri, Cefeo, figlio dell'Arcade Aleo, Ceneo il Lapita, che un tempo fu donna, Corono il Lapita di Girtone in Tessaglia, Echione, figlio di Ermete l'Araldo, Eracle di Tirinto, l'uomo più forte che sia mai esistito, ora un dio, Ergino di Mileto, Eufemo di Tenaro, il nuotatore, Eurialo, figlio di Mecisteo, uno degli Epigoni, Euridamante, il Dolopio del lago Siniade, Falero, l'arciere ateniese, Fano, il figlio cretese di Dioniso, Giasone, capo della spedizione, Ida, figlio di Afario di Messene, Idmone, l'argivo, figlio di Apollo, Ificle, figlio di Testio l'Etolo, Ifito, fratello di re Euristeo di Micene, Ila il Driope, assistente di Eracle, Laerte, figlio di Acriso l'argivo, Linceo, l'ascolta, fratello di Ida, Melampo di Pilo, figlio di Posidone, Meleagro di Calidone, Mopso il Lapita, Nauplio l'argivo, figlio di Posidone, famoso navigatore, Oileo il Locrese, fratello di Aiace, Orfeo il poeta Atracio, Palemono, figlio di Efesto, un Etolo, Peante, figlio di Taumaco il Magnesio, Peleo il Mirmidone, Penelo, figlio di Palcimo il Beota, Periclimeno di Pila, il mutevole figlio di Posidone, Polideuce, il pugile spartano, uno dei Dioscuri, Polifemo, figlio di Elato l'Arcade, Stafilo, fratello di Fano, Tifide, il timoniere, di Sife in Beozia, Zete, fratello di Calaide. E mai prima d'allora così nobile compagnia si era imbarcata su una nave. Gli argonauti sono spesso chiamati Minii perché riportarono in patria l'ombra di Frisso, nipote di Minia, e il vello del suo ariete, e perché molti di loro, compreso Giasone, erano nati dal sangue delle figlie di Minia. Codesto Minia, figlio di Crise, era emigrato dalla Tessaglia Orcomeno in Beozia, dove fondò un regno e fu il primo re che costruì un tesoro. Ai tempi di Omero, un ciclo di ballate che cantava il viaggio degli argonauti alla terra di Eete, potente, era sulla bocca di tutti, e il poeta pone le Plancte, donde l'Argo passò prima ancora di Odisseo, presso le isole delle Sirene e non lontano da Scilla e da Cariddi. Queste pericolose avventure sono elencate nei resoconti più completi del ritorno dell'Argo dalla Colchide. Secondo Esiodo, Giasone, figlio di Esone, dopo aver superato molte gravose prove impostegli da Pelia, sposò la figlia di Eete, che lo accompagnò a Iolco, dove visse a lui soggetta, e gli generò un figlio, Medeo, che fu educato da Chirone. Ma pare che Esiodo fosse male informato. Nei tempi eroici nessuna principessa entrava nella casa del marito, ma al contrario, il marito veniva accolto nella casa della principessa. Giasone dunque o sposò la figlia di Eete e si stabilì alla sua corte, oppure sposò la figlia di Pelia e si stabilì a Iolco. Eumelo, VIII secolo, dice che quando re Corinto morì senza discendenti, Medea fece valere con successo i suoi diritti sul trono di Corinto, poiché era figlia di Eete che, non contento della propria eredità, era di lì emigrato nella Colchide e Giasone, suo marito, divenne dunque re. Né la Colchide né la sua capitale Ea sono citate nelle versioni più antiche, che descrivono Eete come figlio di Elio e fratello della Circe dell'isola Eea. Non si deve tuttavia supporre che la leggenda nota a Omero avesse molto in comune con quella narrata da Apollodoro e da Apollonio Rodio. Persino la rotta seguita dal largo durante il viaggio d'andata, senza parlare di quella seguita nel viaggio di ritorno, non era ancora ben stabilita ai tempi di Erodoto. Poiché Pindaro, nella sua quarta Ode Pitica, 462 a.C., ne presentò una versione molto diversa. Il mito di Pelia e di Diomede, il nome originale di Giasone, pare parlasse di un principe abbandonato su una montagna, allevato da guardiani di cavalli e costretto dal re di una città vicina a compiere imprese che parevano impossibili, come a giocare tori che sputavano fiamme o strappare morti tra le fauci dei mostri marini, sono infatti un soggetto comune nelle opere d'arte etrusche. Come ricompensa avrebbe potuto sposare la principessa erede al trono. Miti analoghi sono comuni nella mitologia celtica, prova ne siano le fatiche imposte a Kilwic, l'eroe dei Mabinogion, quando voleva sposare la maga Olwen, e a quanto pare si riferiscono a prove rituali che dovevano dimostrare il coraggio del re prima dell'incoronazione. È appunto dalla leggenda di Kilwic e Olwen e dall'altra analoga leggenda di Peredur figlio di Evrauc, narrate nei Mabinogion, che si possono trarre le ipotesi più plausibili circa le prove sostenute da Diomede. Kilwic, innamoratosi di Olwen, ricevette dal padre di lei l'ordine di aggiogare assieme un bue giallo e uno pezzato, di ripulire una collina dagli sterpi, seminarvi il grano e poi raccoglierlo in un solo giorno. Doveva inoltre conquistare un corno dell'abbondanza e un magico calderone irlandese. Peredur, innamoratosi di una fanciulla sconosciuta, dovette anch'egli uccidere un mostro marino chiamato Avanc nel lago presso la collina del Lamento, e Ea significa che fa lamento. Dietro giuramento di fedeltà, la fanciulla diede a Peredur una magica pietra che gli permise di sconfiggere Avanc e di conquistare tutto l'oro che un uomo può desiderare. Poi la fanciulla si rivelò imperatrice di Cristonobil, una maga che viveva sontuosamente dalle parti dell'India, e Peredur fu il suo amante per 14 anni. Poiché l'unico altro eroe celtico che sopraffece Avanc fu Ugadarn il Potente, antenato di Cimri, che, aggiogando due tori al mostro, lo trascinò fuori del fiume Conwy, pare probabile che anche Giasone trascinasse il mostro fuori dell'acqua con l'aiuto dei due tori che sputavano fuoco. Il calderone irlandese che Kilwic riuscì a procurarsi corrisponde evidentemente a quello citato nella leggenda di Peredur, e cioè al calderone della rigenerazione, simile al calderone in seguito usato da Medea che un gigante aveva trovato sul fondo di un lago irlandese. Può darsi che a Diomede fosse imposto il compito di trovarne uno identico per Pelia. Le sue fatiche si svolsero in una regione immaginaria, là dove sorge il sole. Non si parla di cornucopia nella leggenda degli Argonauti, ma Medea, per ragioni oscure, fece ringiovanire la ninfa Macride e le sue sorelle, un tempo nutrici di Dioniso, quando le incontrò a Drepane o Corcira. Poiché Dioniso ha molti lati in comune con Zeus Fanciullo, la cui nutrice, la capra Maltea, fornì la cornucopia originale, è probabile che Medea abbia aiutato Diomede a ottenere un'altra cornucopia dalle ninfe che essa aveva colmato di favori. Le fatiche di Eracle, come quelle di Teseo e di Orione, vanno interpretate come prove nuziali e comprendevano la rottura delle corna di ambedue i tori, il Cretese e l'Acheloo. Questo mito sulle prove nuziali, e pare che in una versione assai diffusa a Iolco Pelia avesse la parte del malvagio, mentre nell'altra versione diffusa a Corinto il malvagio era re Corinto, è evidentemente legato alla leggenda semistorica di una spedizione minia che partì da Iolco, organizzata dagli Orcomeni. Orcomeno apparteneva a un'antica anfizionia o lega di Calauria, presieduta dal dio eolico Posidone, e che comprendeva 6 stati rivieraschi di Argo e dell'Attica. Orcomeno, l'unica città dell'entroterra che facesse parte della Lega, era situata in posizione strategica fra il Golfo di Corinto e il Golfo di Tessaglia. I suoi abitanti, come i Beoti di Esiodo, si dedicavano probabilmente ai lavori dei campi in inverno e alla navigazione in estate. Il supposto scopo della spedizione era di recuperare il sacro vello trafugato nella terra di Eete da re Frisso, nipote di Minia, e di riportare a Orcomeno l'ombra di Frisso stesso. Il capo della spedizione fu senz'altro un Minio, e Diomede, figlio di Esone, non lo era. Forse Citisoro, figlio di Frisso, cui Apollonio Rodio dà molto peso nella sua storia, e che fu soprannominato Giasone, il guaritore, a Orcomeno, perché pose fine alla pestilenza scoppiata dopo la fuga di Frisso. Tuttavia Diomede era un Minio per parte di madre, ed è probabile che sia a Orcomeno sia nella Iolco Pelasgica si rispettasse la discendenza matrilineare. In questa leggenda minia, la terra di Eete non poteva trovarsi al di là del Mar Nero, anzi tutto concorda nell'indicarci l'Adriatico come la sua sede più probabile. Si suppone che gli Argonauti abbiano navigato lungo il Po, di fronte alla cui foce, sull'altra sponda dell'Adriatico, si trovava Eea, l'isola di Circe, ora chiamata Lussino, e che siano stati bloccati dai sudditi di Ete alla foce dell'Istro, che non è il Danubio, ma, come suppone Diodoro Siculo, il piccolo fiume che dà all'Istria il suo nome. Medea allora uccise suo fratello Apsirto, che fu sepolto nella vicina Apsirtide, e quando essa si rifugiò con Giasone presso Alcino, re di Drepane Corcira, gli abitanti della Colchide, che si videro così mancare ogni possibilità di vendetta, per il timore di incorrere nell'ira di Ete, ritornando a mani vuote, costruirono la città di Pola in Istria. Inoltre la terra delle Sirene, le rocce dei naufragi Scilla e Cariddi si trovavano tutte nei pressi della Sicilia, che Largo aveva già oltrepassata quando fu travolta dal violento vento di nord-est. Colchide, infatti, può essere un errore. Si alluderebbe qui a Colicaria, sul basso Po, non lontano da Mantova, una delle tappe della strada dell'Ambra. Infatti le figlie di Elio, che piangevano lacrime d'Ambra, vengono citate nel corso del racconto non appena Largo entra nel Po. L'Ambra era sacra al sole, ed Elettra, Ambra, l'isola dove pare sia approdata Largo, non era Samotracia, come gli scoliasti suppongono, ma probabilmente la terra di Eete, un mercato al termine della strada dell'Ambra, città forse corinzia, poiché Eete importò da Corinto il culto del sole, ma forse anche pelasgica, perché secondo la Periegesi di Dionigi, una colonia pelasgica, originaria di Dodona, teneva una potente flotta alle foci del Po. Al mito di Diomede, mito di pura fantasia dal punto di vista geografico, effusosi con la leggenda di un viaggio di Minii alla terra di Eete, si aggiunse un terzo elemento. Il ricordo di un'antica scorreria di pirati compiuta lungo le coste meridionali del Mar Nero per ordine di un altro re dei Minii. Questa scorreria voleva portare un fiero colpo al monopolio del commercio col Mar Nero, esercitato dalla sesta città di Troia, grazie alla sua posizione chiave nell'Ellesponto. Ora, il presunto scopo del viaggio dei Minii nell'Adriatico non era la conquista di un vello d'oro, ma bensì, secondo Simonide, citato da uno scolio ad Apollonio Rodio, di un vello purpureo che il primo mitografo vaticano descrive come la veste indossata da Zeus per salire al cielo. In altre parole, si trattava del vello nero indossato dal re nei riti che dovevano propiziare la pioggia. Riti simili a quello che ancora oggi si compie a Calen di Maggio sul monte Pelio, dove un vecchio con una maschera di pelle di pecora nera viene ucciso e poi fatto rivivere dai suoi compagni che indossano velli bianchi. Secondo dice Arco, questo rito si svolgeva in epoca classica sotto gli auspici di Zeus Atteo o Aereo della sommità. In origine l'uomo dalla maschera nera era senza dubbio il re, rappresentante di Zeus che veniva sacrificato al termine del suo regno. Il fatto che identica cerimonia si svolgesse sul monte Pelio e sul monte Lafischio può spiegare il fondersi di due tradizioni iolche, e cioè il mito di Diomede e del viaggio al Mar Nero e la leggenda di un viaggio di Minii per porre riparo alle sciagure provocate da Frisso. Tuttavia è probabile che ai Minii non fosse affidato il compito di riportare in patria il vello Lafischio, vello che si poteva sostituire con facilità. Si suppone invece che si siano andati in cerca di Ambra da offrire alla offesa dea della montagna per placarla. Dobbiamo ricordare qui che i Minii occupavano Pilo Sabbiosa sulla costa meridionale del Peloponneso, strappata ai Lelegi da Neleo con l'aiuto dei Pelasgi di Iolco, e che, secondo Aristotele, i Pili andavano a prendere l'Ambra alla foce del Po. Nel punto dove sorgeva questa antica Pilo, ora il villaggio di Cacovatos, sono venute alla luce recentemente grandi quantità di Ambra. Nella leggenda che parla del viaggio verso Oriente, questo vello divenne d'oro perché bisognava includere l'impresa di Diomede che strappa un tesoro al mostro marino. E perché, come fa notare Strabone, gli Argonauti che si spinsero nel Mar Nero andavano in cerca dell'oro alluvionale del fiume Fasi, ora Rion, nella Colchide. Oro che gli indigeni raccoglievano in pelli di pecora stese sul fondo del fiume. e non fu soltanto la confusione nata tra Colchide e Colicaria, tra Ea Terra e Eea Gemente, tra il vello nero del Monte Pelio e quello del Monte Lafistio, che fece fondere l'una con l'altra diverse leggende. Il palazzo dell'Alba di Elio, padre di Eete, si trova in Colchide, la più orientale delle terre note a Omero. E si parla di Giasonica, templi in onore di Eracle il Risanatore, sorti lungo il golfo orientale del Mar Nero, dove gli Eoli avevano fondato città mercati per i loro scambi. Secondo molte fonti autorevoli, Eracle guidò la spedizione nel Mar Nero. Inoltre, poiché Omero cita Giasone soltanto in quanto padre di Euneo che fornì vino ai Greci durante l'assedio di Troia, e poiché Lemno si trova a oriente della Tessaglia, si suppose che anche Largo si fosse diretta a oriente. Le rocce vaganti o dei naufragi che Omero pone nelle acque sicure furono così trasferite nel Bosforo. Ogni città doveva vantare un rappresentante tra gli argonauti per giustificare i suoi diritti di traffico nel Mar Nero, e gli aedi ambulanti erano ben disposti a introdurre qualche nome in più in questa ballata ciclica. Sono dunque giunti fino a noi alcuni elenchi di argonauti in contrasto tra loro, ma tutti concordano nell'affermare che la spedizione partì su una nave a 50 remi, il che non era impossibile ai tempi micenei. Il solo Zezze cita 100 nomi. Persino gli scettici più smaliziati, tuttavia, non mettono in dubbio che il nucleo della leggenda fosse storico e che il viaggio degli argonauti si svolse prima della guerra di Troia, nel corso del XIII secolo a.C. L'unico sandalo di Giasone prova che egli era un guerriero. I guerrieri etoli erano famosi per la loro abitudine di combattere col solo piede sinistro calzato, e durante la guerra del Peloponneso il loro esempio fu seguito dai plateesi per non scivolare nel fango. Il piede calzato era quello dalla parte dello scudo e non quello dalla parte della mano armata, forse perché lo si portava avanti nel corso del corpo a corpo e poteva servire per dare un calcio nel ventre all'avversario. Infatti il piede sinistro era il piede dell'inimicizia e non lo si posava mai per primo sulla soglia di una casa amica. La tradizione sopravvive ancora nell'Europa moderna, dove i soldati marciano per la guerra portando avanti per primo il piede sinistro. Il contrasto tra Era e Pelia, a proposito di un sacrificio non compiuto, ci lascia supporre una rivalità tra la dinastia achea di Iolco, devota a Posidone, e i suoi sudditi eolo-magnesi, devoti alla dea.